9:14 minuti, dunque dicevamo che ci saremo velocemente collegati con Simone della rete Terremoto Marche. Oggi sarebbe proprio il giorno in cui alle 11 ci sentiamo con lui per gli aggiornamenti sul terremoto del 2016, ma purtroppo questa mattina dobbiamo parlare di una scossa registrata attorno alle 5 del mattino proprio nel maceratese. Allora io non aggiungo altro e do subito il buongiorno e ben ritrovato a Simone. Buongiorno Simone. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora ti chiedo di raccontarci un pochino qual è la situazione in questo momento e che cosa ci puoi raccontare di quello che è avvenuto questa mattina dalle parti. L'epicentro, abbiamo visto, è stato registrato a Muccia. Sì, l'epicentro a Muccia, diciamo a livello, diciamo, per quanto riguarda il comune, quindi tra i comuni di Pieve Torina e Muccia, diciamo da un punto di vista più materiale per quanto riguarda anche la paura, se vogliamo. Ovviamente è stata una scossa avvertita un po' ovunque nel territorio, è tornata, diciamo, l'elemento principale, che è tornata una grandissima paura, perché la scossa è stata chiaramente molto forte, soprattutto per tutti i comuni limitrofi all'epicentro. Ci sono stati danni, è crollato un piccolo campanile, qualche verifica delle abitazioni, le scuole precauzionalmente sono state chiuse appunto nei comuni, ad esempio, di Pieve Torina. Diciamo, a livello generale si è tornati un po' da capo in questa emergenza continua che andava avanti da ormai un anno e mezzo / due. Si è inserita questa scossa e siamo tornati un po', soprattutto a livello psicologico, un po' all'inizio. È una roba ovviamente logorante. Per quanto riguarda i danni, appunto, come dicevo prima, più che altro si tratta di nuove verifiche, ci sono stati, ma non fortunatamente non eccessivi. La cosa un po' paradossale è che ci sono stati dei danni anche per quanto riguarda le nuove strutture, diciamo, è crollato un muro di contenimento di un villaggio SAE, all'interno delle SAE abbiamo visto anche, ci sono delle foto che stanno circolando online, si sono staccati dei pensili, sono crollate delle piccole strutture, quindi ecco, potete immaginare lo stato d'animo delle persone che vivono, ecco, nei comuni più vicini all'epicentro. È una roba veramente drammatica, perché già vivono appunto questa emergenza continua di cui parlavo prima, e ora questo rischia di far veramente crollare nuovamente psicologicamente tutti quanti. Insomma, è veramente sconfortante quello che è accaduto. Insomma, il terremoto, sì, i terremoti accadono, ma appunto tutto questo avviene in uno scenario che Simone ci ha descritto nel corso di tutti questi mesi, e ancora occupati a cercare di riparare le ferite del terremoto del 2016, e adesso purtroppo bisogna affrontare anche questo. Simone, io non ti voglio adesso trattenere di più al telefono, anche perché ci dovremmo risentire tra un po' meno di un paio d'ore per il nostro consueto appuntamento di Terremoto Marche delle 11. Approfitteremo magari tra un paio d'ore circa per dare ulteriori aggiornamenti, se ce ne sono, aggiornamenti su quanto è avvenuto questa mattina, ma aggiornamenti anche su quello che è avvenuto nell'agosto del 2016, perché è di quello di cui stiamo parlando ormai da praticamente un anno. Io non so se volevi aggiungere qualche cosa al volo, Simone, se ci vogliamo dare appuntamento direttamente per le 11. Ci sentiamo direttamente dopo. Nel frattempo noi stiamo facendo ovviamente diverse telefonate alle persone che si trovano più vicino all'epicentro, quindi magari ci sentiamo anche con qualche aggiornamento anche di prima mano. Benissimo, grazie mille Simone, a più tardi allora. Grazie, grazie a voi. Ciao ciao.